È davvero molto strano, c'è qualcosa che non va. È davvero molto strano, c'è qualcosa. Non so proprio cosa dire, non mi è capitato mai. Non so proprio cosa dire, che figura. Ma con tutto questo sole, questo mare così blu, non avrei pensato che capitasse proprio a me. Tu mi dici salsa, io ti dico salsa, mi rispondi salsa, ma chissà se salserà. Tu mi dici salsa, io ti dico salsa, mi rispondi salsa, ma chissà se salserà. Sarà stato questo caldo, anche se non c'è lo stress. Mamma mia, con questo caldo che fatica. E pensare che risate quando capitava che qualche amico mi diceva che figura. Nonostante tutto questo, giuro che mi rifarò. Non avrei pensato che capitasse proprio a me. Tu mi dici salsa, io ti dico salsa, mi rispondi salsa, ma chissà se salserà. Tu mi dici salsa, io ti dico salsa, mi rispondi salsa, ma chissà se salserà. Salsa, ma chissà se salserà.